Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 11 minuti circa, altra puntata di Salva Danaio dedicata questa mattina alle facoltà universitarie, alla scelta della laurea, una scommessa contro la crisi in un mercato del lavoro così difficile come quello che sta caratterizzando il nostro paese. La scelta di ciò che si vuole fare dopo le scuole superiori diventa fondamentale per la nostra vita, per la vita dei nostri figli. Lo facciamo come sempre con illustri e autorevoli ospiti. Saluto allora subito, perché è collegato telefonicamente con noi, il professor Andrea Cammelli, che è direttore del consorzio Alma Laurea. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E saluto Federica Micardi, che è in studio a Milano. Buongiorno Federica. Buongiorno. Federica è la collega del Sole 24 Ore, che ha curato insieme ad altre colleghe del Sole 24 Ore la guida dedicata proprio all'università, che è uscita ieri in edicola assieme ovviamente al quotidiano. Più tardi ci raggiungerà anche sempre telefonicamente Luca De Stefani, che è esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che ci aiuterà a capire anche quali sono tutti i risvolti fiscali, cosa si può detrarre, cosa no, tutte le spese che appunto possiamo in qualche modo ammortizzare almeno in parte per quanto riguarda appunto le spese da sostenere per l'università. Prima però di affrontare il nostro tema, i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. E subito invece andiamo a dare un altro sguardo a ciò che sta accadendo sui mercati. Le piazze europee hanno tutte il segno più in questo momento, dopo un avvio con il segno meno, un avvio negativo questa mattina, dopo una chiusura contrastata per quanto riguarda le piazze asiatiche. Diciamo che l'Europa non aveva proprio aperto con il piede giusto. Poi sono arrivate, questo è dovuto soprattutto all'attesa per il meeting della Fed, un meeting che comincia oggi e si conclude domani, e da qui si attendono delle indicazioni proprio sul destino di queste misure di allentamento monetario che sono state utilizzate dalla Fed negli ultimi mesi. Poi però è intervenuto il governatore della BCE Mario Draghi in un discorso tenuto a una conferenza a Gerusalemme. Draghi ha detto che la BCE guarda con mente aperta ulteriori strumenti non convenzionali di politica monetaria e li dispiegherà se necessario. Queste sono state le parole testuali di Mario Draghi, che poi ha rivolto gran parte della sua attenzione al tema della disoccupazione. Inaccettabile, ha detto Draghi, il livello di disoccupazione in Europa, questa deve essere la priorità. E in qualche modo anche noi oggi con Salva Danaio ci occupiamo di questo tema, anche se ovviamente partiamo dalla laurea per capire qual è il modo migliore per approcciare il mercato del lavoro. Dopo le parole di Draghi, in qualche modo i listini hanno cambiato umore, anche se restano molto deboli. Parigi guadagna uno 0,02%, Francoforte lo 0,10%, meglio fa Londra, che guadagna uno 0,83%, e piuttosto bene fa anche Milano, che guadagna un mezzo punto percentuale, sostenuta soprattutto dai titoli bancari, anche se il miglior titolo in questo momento a Piazza Affari è di Asorin, che guadagna il 2,86%, seguito da UbiBanca, che guadagna il 2,32%, Unicredit il 2,27%, il Banco Popolare guadagna l'1,69%. In fondo al listino invece troviamo Eni, che anche oggi soffre, meno 0,85%, anche se la controllata Saipem in questo momento è poco al di sopra della parità. Ricordiamo ieri il pesantissimo scivolone di Saipem, che ha ceduto oltre 20 punti percentuali dopo aver comunicato venerdì a mercati chiusi il taglio delle stime per il 2013 e una perdita compresa tra i 300 e i 350 milioni di euro. Ricordiamo che oggi sono vietate le vendite allo scoperto, decise ieri, una decisione presa ieri dalla Consob. Sempre in fondo al listino troviamo Pirelli, che cede lo 0,85%, Fiat lo 0,8%. In questo caso Fiat sconta i dati relativi al mercato delle auto in Europa, che A maggio ha registrato una flessione intorno ai 6 punti percentuali. Parmalat cede lo 0,79, Campari mezzo punto percentuale. Sul listino completo RCS cede un 7,29% secondo indiscrezioni pubblicate questa mattina dal Messaggero. Il socio Giuseppe Rotelli, che detiene il 16,6% direttamente e indirettamente, non dovrebbe partecipare all'aumento di capitale e vedrebbe così diluire la sua quota al 4,15%. Ricordiamo che l'aumento di capitale di RCS è cominciato proprio ieri. Altri dati e altri fatti relativi all'Europa di quest'oggi: cresce la fiducia degli investitori tedeschi a giugno, l'indice ZEV è salito dai 36,4 punti di maggio ai 38,5 punti appunto di giugno, e poi la Spagna ha collocato oltre 5 miliardi di titoli di Stato con scadenza 6 mesi e un anno, con rendimenti però in rialzo. Questo per quanto riguarda i mercati in questa mattinata di martedì 18 giugno. Noi invece, come dicevamo, ci occupiamo della scelta della facoltà universitaria, una scommessa contro la crisi e contro un mercato del lavoro che davvero sta mettendo in difficoltà il paese, la nostra scheda. Notte prima degli esami, notte di polizia. 500.000 studenti scopriranno tra meno di 24 ore i titoli delle tracce della prova di italiano che li proietterà nel rito di passaggio per eccellenza, l'esame di maturità, superato il quale dovranno affrontare scelte molto importanti per il loro futuro. Molti di questi ragazzi sceglieranno un corso di laurea, intraprendendo insieme alle loro famiglie un percorso delicato e impegnativo sotto molti punti di vista, non ultimo quello economico. Intanto, proprio in questi giorni, ha fatto parlare di sé l'Università di Teramo, il cui rettore ha deciso di affidare agli studenti, selezionati attraverso un bando, una serie di servizi interni, comprese le pulizie e il servizio in mensa, con regolare stipendio, naturalmente, in modo che possano contribuire alle spese di iscrizione. La necessità di lavorare, nel bel mezzo di una crisi che sta colpendo tanto duramente l'occupazione giovanile, è un tema all'ordine del giorno. Quando si finisce l'università, mentre la si frequenta, ma soprattutto nel momento in cui ci si trova a scegliere il proprio corso di studi. Ci si chiede come individuare la strada giusta, che permetta di conciliare sogni e aspirazioni con la possibilità concreta di trovare un lavoro una volta usciti. In molti casi c'è la prova del test di ammissione, che dovrebbe garantire una prima scrematura, e poi gli assi nella manica. La conoscenza delle lingue straniere, i tirocini professionalizzanti, i periodi di formazione all'estero. Alcuni, alla luce delle spese da sostenere e dei dati sulla disoccupazione giovanile al 40%, potrebbero chiedersi se ne valga realmente la pena, ma da Alma Laurea garantiscono. A 5 anni dalla tesi il dato si riduce a 6 punti percentuali. Insomma, studiare rende, e in autunno i maturandi di domani vedranno aprirsi le porte nel bel paese di oltre 4.400 corsi di laurea. Si tratta solo di scegliere bene. Se l'amore è amore. E allora, la musica di sottofondo che abbiamo scelto per questa scheda, che è Antonello Venditti, Notte prima degli esami, mi ricorda di ricordare a tutti voi che questa sera su Radio 24, dalle 21 a mezzanotte, in onda lo speciale dedicato proprio alla notte prima degli esami, un momento davvero particolare nella storia di ogni studente, che poi apre a un futuro davvero impegnativo, perché a questo punto la scelta della facoltà e poi ovviamente il relativo percorso diventa, come dire, una prima parte di quello che sarà poi il lavoro da sostenere nella vita. Voglio, prima di coinvolgere i nostri ospiti, leggervi alcuni sms che sono arrivati al 349-238-6666. Il primo è quello di una signora che ci scrive, e non ho ben capito se lo scrive con tono ironico o meno: bello sentir parlare di laurea quando, vista la situazione, il futuro degli italiani sembra legato al ritorno massiccio alla zappa. Pippa. E poi un altro ascoltatore da Belluno: in un mondo dove mancano idraulici, elettricisti, operai specializzati, badanti, agricoltori, perché ci si ostina a far laureare anche gli zucconi? E allora io queste due, come dire, queste due facce le giro al professor Andrea Cammelli, che proprio ieri invece sulla Guida del Sole ha scritto un articolo, un'analisi, cominciando proprio in questo modo, cioè che studiare invece rende, quindi ci ripaga, diciamo, di tutti gli sforzi. Ma sì, credo davvero che questa sia una delle cose che vanno ripetute e sottolineate con maggiore forza. Io so bene, naturalmente l'abbiamo dimostrato anche, che anche la condizione occupazionale dei laureati nell'ultimo decennio si è ridotta in misura consistente, però come è stato ricordato prima, è anche vero che i nostri laureati hanno bisogno di tempi più lunghi per trovare un'occupazione. E hanno anche bisogno naturalmente di tempi più lunghi per riuscire ad avere una retribuzione che sia al passo con quelle che sono in Europa. Però, come abbiamo messo in evidenza, 5 anni dalla laurea la condizione occupazionale dei laureati raggiunge delle quote molto elevate, la disoccupazione riguarda soltanto sia al primo livello che nella laurea specialistica che nella specialistica a ciclo unico, raggiunge sostanzialmente il 6%, quindi questo è un elemento secondo me che va tenuto in grande considerazione. È chiaro che quando si spendono i numeri complessivi che riguardano la popolazione giovanile, ci sono cifre molto elevate che preoccupano, naturalmente, ma non dobbiamo dimenticare due cose in particolare. Intanto che i laureati in ogni caso continuano a lavorare di più di quanto non avvenga per i diplomati di scuola secondaria. Naturalmente questo è un valore medio, naturalmente abbiamo e sul sito di Alma Laurea si può benissimo vedere la diversa articolazione dei valori, però questo vuol dire sostanzialmente che il laureato, anche negli anni più recenti, lavora 13 punti percentuali in più di quanto non capiti al diplomato di scuola secondaria, intanto. E forse la cosa che anche può essere convincente per i genitori, poi dopo vedremo un pochino qual è la consistenza dei giovani nel nostro paese, sì, è che nel complesso della vita collaborativa, quindi fino a 64 anni di età, i laureati guadagnano il 50%, fino ad ora hanno guadagnato il 50% in più di quanto non capita ai diplomati. A me pare questo un elemento importante, perché sui giornali, su tanti quotidiani, anche sulla stampa più interessata, più coinvolta, spesso e volentieri viene messo in evidenza che il laureato guadagna tanto o addirittura di meno di un diplomato. Sì. E questo è vero alla medesima età, cioè a 24 anni, quando il diplomato lavora ormai da 4 anni e il laureato è appena uscito dall'università. Ma ripeto, il complesso dei valori che vengono dati dall'OCSE, tra l'altro per il 2012, ci dice che nell'arco intero della vita il laureato guadagna il 50% in più. Allora, Federica, anche da quanto avete scritto, mi sembra che mi puoi confermare che veramente orientarsi tra tutti i corsi possibili che vengono offerti sia appunto il primo passo del lavoro, perché già quello, già la scelta del corso di laurea, ricordiamo che sono oltre 4.000, già quella è quasi appunto un lavoro, già questa scelta. Sì, non è facilissimo destreggiarsi sulle offerte. Diciamo che grazie al cielo la moda che ha visto nascere i corsi più disparati è un po' rientrata, forse anche a causa della crisi, ma comunque sono tantissimi, non sempre è facile capire dove sono, per questo la nostra banca dati è strutturata in modo tale da facilitare un po' la ricerca, sia per aree tematiche che per province, per semplificare un po' la vita a questi ragazzi. E è vero anche che facendo questo lavoro da diversi anni ci siamo resi conto che sono due le linee che stanno prendendo abbastanza piede e importanza nel campo del lavoro e della scelta dell'università, che sono la lingua straniera e la formazione legata al web, ma non necessariamente ingegneria piuttosto che, ma proprio degli aspetti tecnologici nelle varie materie che si trovano, sia delle materie umanistiche che quelle scientifiche che quelle storiche, per cui sta cambiando la formazione, ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere. Noi cerchiamo di facilitare questo compito, evidenziamo anche, ad esempio, quali sono i corsi in inglese o parzialmente in inglese, quelli che danno un doppio titolo e quindi che ti consente di formarti almeno per 6 mesi fino a un anno all'estero. Sì. Insomma, diciamo che il compito non è facile, noi cerchiamo di semplificare al meglio lo strumento. Poi Sì, certo, sta ai ragazzi è cercare di. ovvio, lì non è semplicissimo, anche perché è vero che quando si esce dalla scuola superiore si è già, diciamo, si è grandi, si è maturi per insomma, avere almeno un'idea di quello che si voglia fare o di quali sono le materie che sono più simili a noi e quindi che ci piacerebbe maggiormente studiare, perché poi comunque ricordiamolo che studiare non è una cosa così leggera, insomma, non si può prendere sotto gamba. A maggior ragione adesso, epoca in cui bisogna assolutamente rispettare i tempi per laurearsi, altrimenti si perdono dei treni. Però volevo tornare, fare un passo indietro e chiedere al professor Cammelli perché è anche questa differenziazione tra la specialistica, quindi i primi 3 anni e poi i successivi, non disorienta un po' i ragazzi, non crea delle difficoltà ulteriori, perché una volta il corso di laurea, quello durava, bisognava portarlo a termine tutto, e insomma, almeno da questo punto di vista, difficoltà non ce n'erano. Ma senta, a me pare che sia giusto fare alcune considerazioni. Intanto una delle cose che volevo dire, dico fin da prima, è che bisogna investire molto di più nell'istruzione di tipo universitario, seppure i vari dico, livelli, dopo ne parliamo, anche dico, pensando a una cosa importante. La popolazione dico, giovanile dei 19enni in Sì. Italia fra il 1985 ed oggi è precipitata del 38%. Quindi noi non siamo un paese dove la popolazione dico giovanile è molto ampia. No, solitamente quando si pensa alla popolazione per classi dico, di età, si pensa alla piramide per età. Noi in realtà abbiamo, continuo a ripetere, una sorta di asso di picche, cioè il futuro del paese, che è legato naturalmente agli investimenti sui giovani, Sì. purtroppo paga un prezzo elevato perché i giovani si sono ridotti in misura molto consistente, prima cosa. La seconda cosa che dobbiamo dire è questa, è chiaro che oggi il sistema universitario è cambiato notevolmente dal 2010, voglio ricordare agli adulti che spesso e volentieri ci ripetono questa frase ormai fatta, che prima l'università andava bene ed oggi invece le cose vanno peggio, voglio solo sì ricordare che fino al 2000 i laureati della vecchia dico generazione si laureavano in corso nella misura inferiore al 10%, oggi sono diventati il 40% e questo vuol dire sostanzialmente che i ragazzi stanno impegnandosi molto di Certo, di più di più. Certo. quanto non capitasse una volta. E naturalmente questo avviene ancora in misura più rilevante per quanto riguarda le lauree dico specialistiche e specialistica a ciclo unico. Allora, è vero che il quadro è cambiato, però noi abbiamo visto che cosa? Attraverso le analisi che stiamo conducendo da 15 anni sulla condizione occupazionale dei laureati dopo 1, dopo 3, dopo 5 anni, abbiamo visto che cosa? In realtà che la condizione occupazionale dei laureati di primo livello, quelli che per tanto tempo dico, si è detto e si è sostenuto che non sono preparati abbastanza, eccetera, eccetera, in realtà la condizione occupazionale è perfino migliore di quella delle lauree specialistiche e della laurea specialistica a ciclo unico. E questo perché? Che cosa ci fa venire in mente? Ci fa venire in mente una cosa che purtroppo dovrà cambiare in questo benedetto paese, cioè che la qualifica dei manager per titolo di studio, Sì. vede purtroppo una percentuale molto bassa di manager con la laurea. In Italia i dati sono quelli di Eurostat, noi Sì. abbiamo il 15% dei laureati, dei manager, che hanno il titolo di studio. In Germania, questa quota, in Germania con la quale siamo soliti fare confronti, è del 44%. Allora è evidente che il manager che è laureato è in grado di apprezzare di più e meglio la formazione del laureato e valorizzarla Certo. naturalmente, più di quanto non capiti purtroppo in un paese nel quale gli studi superiori, cioè gli studi universitari, sono stati ancora una volta molto bassi. Noi abbiamo una popolazione adulta, fra la quale ci sono i politici, ci sono i manager, eccetera, eccetera, che purtroppo ha un bassissimo tasso di laurea, e questo naturalmente rischia di diventare un elemento di forza. Ora, io penso sempre, e spesso e volentieri, spesso al premio Nobel Becker, che diceva: attenzione, le attrezzature, gli impianti in un'impresa sono necessari, ma è altrettanto fondamentale che a utilizzare gli strumenti di lavoro ci siano persone capaci, certo, ma non di farlo. Solo fra i lavoratori, anche fra gli imprenditori. In un paese nel quale, dico, gli imprenditori purtroppo in gran parte, ma questo non deve essere un elemento ovviamente per parlare, dico, in negativo, però hanno bisogno di questa formazione. È evidente che il laureato finisce per non essere valorizzato, certo, tanto quanto sarebbe, dico, utile e necessario. Allora, professore, lei ovviamente ha aperto il discorso, ha introdotto degli elementi di, come dire, anche di scelte politiche, politica intesa in senso alto, che purtroppo noi non possiamo affrontare, e poi torneremo un po' più invece nel concreto e nel dettaglio, perché anche quanto ci chiedono gli ascoltatori. Salva Danaio. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via. Insomma, se state studiando e magari volevate allontanare da voi il pensiero dell'esame di domani, non c'è verso, perché questa canzone vedrete che ricorrerà nella nostra giornata, ma sarà di buon auspicio, speriamo. Allora, professor Cammelli, io prima l'ho interrotta, ma anche perché sapevo che sarebbero arrivati degli sms ovviamente con un tono un po' polemico. Ad esempio, ci scrive un ascoltatore: non sono laureato ma sono un dirigente da alto livello, e in tono ovviamente polemico ci scrive: mi devo sparare? Ovviamente no, ma il discorso del professore era un discorso molto ampio che ricomprendeva ovviamente tutti gli aspetti della situazione. Fabrizio D'Alecco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, la ringrazio della possibilità di partecipare. Ci dica. Io volevo puntualizzare una cosa, nel senso che sentivo la scheda iniziale alla trasmissione che diceva che nei 5 anni solo il 5-6% dei laureati non trova posto. Io non sono tanto d'accordo, nel senso che può anche essere vero, ma si riferisce ad un confronto perlomeno statisticamente dal 2007 indietro, no? Mentre oggi come oggi penso che questa statistica non abbia molto valore. Io porto l'esempio di mio figlio, che tra l'altro mi sento un po' responsabile perché l'ho fatto scegliere io una facoltà all'interno di ingegneria che ritenevo poco inflazionata e molto interessante, ingegneria, sì, energetica, e anche quando si è laureato un anno e mezzo fa il rettore diceva che nel suo settore il 99,9% trovavano posto di lavoro. Quindi non stiamo parlando di un ingegno, di una facoltà inflazionata, eppure sì, in Italia al di là di Eni ed Enel, che al momento sono in grosse difficoltà perché c'è un grossissimo calo di consumo di prodotti energetici, l'Enel sta chiudendo delle centrali elettriche perché c'è una sovrapproduzione energetica rispetto al consumo, il fotovoltaico è in grande crisi rispetto alla domanda che c'era 2-3 anni fa. Sì, sì, sì. Comunque lei dice ci sono ovviamente delle grosse difficoltà anche per questa, per questo tipo di facoltà. Allora, Fabrizio D'Alecco, ovviamente io la ringrazio per la sua testimonianza, però volevo anche cercare di, come dire, allargare in questo caso il discorso. Federica, comunque ingegneria resta una di quelle facoltà verso le quali diciamo danno più sbocchi rispetto ad altre. Ma sì, tendenzialmente sì, e Cammelli lo saprà bene perché lui monitora ogni anno. Però il problema vero qual è? Che loro, i ragazzi oggi, devono scegliere cosa fare fra 5 anni, e certo, noi fra 5 anni non sappiamo. Quali saranno le professioni richieste. Per questo la scelta, è vero che ci sono facoltà che aprono più porte, facoltà che ne aprono di meno, eccetera, però è fondamentale che uno segua una passione, perché la passione ti spinge non solo a studiare ma anche ad approfondire, certo, ad aggiornarti oltre, in qualche modo, esatto. No? A seguire quella che è la tendenza e quella che sarà poi la tendenza, sì, di quella, esatto, professione, perché, o di quella materia. Sì, è fondamentale, perché poi, come dire, appunto, uno si dovrà reinventare di qualcosa che ama, uno è in grado di reinventarsi di qualcosa che ha studiato perché pensa che gli servirà, ma in realtà non è appassionato, diventa complicato poi. Molto complicato. Farlo tutta la vita. Allora, e a questo proposito mi fa anche piacere leggere un SMS, perché è vero che comunque Salvadanaio è una trasmissione di servizio, quindi tra poco parleremo ad esempio anche dei test d'ingresso, che è giusto ricordare come si sono modificate le cose nelle ultime settimane, però mi fa piacere leggere questo SMS di Leonardo da Padova, che scrive: sono laureato triennale in filosofia, magistrale in scienze delle religioni, attualmente dottorando senza borsa. Sapevo che la mia strada mi avrebbe dato difficoltà per quanto riguarda il lavoro e le ho accettate in pieno, ma mi alterano un poco quando sento che quasi sempre ufficialmente si spinge verso una considerazione della scelta universitaria meramente tesa a un posto di lavoro. Ricordatevi sempre, voi professionisti dell'informazione, della cultura e del patrimonio umanistico del nostro paese, o faremo la fine dell'orchestra televisiva greca. E questa è una considerazione comunque da tenere presente, che si riallaccia un po' a quello che dicevi, Federica, cioè che comunque ognuno deve scegliere una cosa che sia vicina alla propria persona, al proprio carattere, insomma alle proprie attitudini, qualcosa che piaccia. Studiare deve essere anche, tra virgolette, un piacere. Nino da Latina, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Volevo semplicemente fare due considerazioni. Allora, la prima, rispondere al professore che parlava di manager. Molto importante avere i manager che siano in grado di poter portare avanti i programmi delle società. Ma vorrei ricordare una cosa: parliamo di laureati, ma perché non parliamo di persone specializzate? Perché non parliamo dei mestieri che ci stiamo perdendo? Perché non parliamo dei fabbri, dei falegnami, degli installatori meccanici, che non abbiamo più e che una volta le regioni facevano dei corsi specializzati per questo tipo di lavori e davano a dei giovani le prospettive di lavoro per il futuro? Le fabbriche avevano i loro operai specializzati. E allora, non certo, si dovrebbe fare solamente un discorso di laureato, non dobbiamo valorizzare coloro che, non avendo la possibilità di studiare, certo, devono, certo, avere la possibilità di trovare un loro posto, una loro occupazione. Assolutamente. Nella attività moderna, cosa assolutamente che noi stiamo perdendo. Certo, allora, signor Nino, sicuramente quanto lei dice è giusto. Le ricordo che comunque Salvadanaio si è occupato anche di queste professioni, perché il martedì si parla sempre in qualche modo di lavoro e si è occupato anche di questo, ma oggi parliamo di università e della scelta dell'università, e quindi ci siamo concentrati su questo. A questo proposito io saluto anche Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto telefonicamente. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Lei che tra pochissimo ci dirà tutto quello che possiamo in qualche modo fare per ammortizzare le spese universitarie, e quindi benvenuto anche a lui. Subito invece la linea a Mainardo da Treviso, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie, ci la dica. Mia era una constatazione, una domanda. Io niente, sono laureato in ingegneria, ho 38 anni, da un po' di anni, e ci ho messo un po' di tempo, e la mia domanda è questa: visto che i corsi di laurea durano 5 anni, parlo di ingegneria, ma sì, ce ne sono anche altri, e l'età media, io mi sono laureato a Udine, l'età media di laurea, insomma, di un laureato a Udine era intorno agli 8 anni. In giro per l'Italia non so quale sia, ma ho informazioni più o meno simili, sì, almeno nel nord Italia. La domanda è questa: è normale che ci sia una vita, diciamo, di studio così lunga? Allora, professore, come avrà sentito, il nostro ascoltatore ci chiedeva se è, come dire, se è normale che i corsi, i tempi di laurea siano così lunghi. Io le chiedo anche: ma è sempre colpa degli studenti se si laureano in ritardo? Non è che forse abbiamo anche degli atenei in cui gli studenti non vengono seguiti accuratamente? Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io credo che l'ascoltatore si sia laureato prima, però mi pare. Sì, però comunque faceva una considerazione sui tempi lunghi. Ma non c'è dubbio, ma dico tant'è vero che avevo ricordato, dico precedentemente, che prima della riforma, dico, la laurea in corso, dico, non riguardava nemmeno 10 laureati, dico, su 100, oggi siamo arrivati a 40 e addirittura è molto più elevata per quanto riguarda i laureati della laurea, dico, specialistica, quindi anche fra gli ingegneri questa quota si è molto alzata e questo mi pare che sia un segnale importante, che una parte dei giovani si stanno impegnando molto di più di quanto non facessero un tempo, naturalmente, anche perché vengono in gran parte da famiglie dove la laurea dico non esiste. Mm-hmm. Voi pensate che oggi nel 2012 75 laureati su 100 portano a casa la laurea per la prima volta, cioè una laurea che non è stata né del padre né della madre. Certo. E questa quota naturalmente si riduce quando si passa alla laurea dico specialistica, e alla laurea specialistica a ciclo unico vuol dire che c'è una sorta di selezione sociale, perché certo, i giovani che escono da queste famiglie in realtà trovano soltanto, dico, 55% dei laureati, certo, o genitori che non hanno la laurea. Mm. Quindi c'è questa serie. Ma io credo che una delle cose a cui dobbiamo tener conto, soprattutto per aiutare i ragazzi a scegliere meglio, sì, a scegliere con più testa e a scegliere in modo che sia più, dico, rispondente a quelle che sono le proprie, dico, tendenze, sono due aspetti che secondo me sono importanti. Uno è stato richiamato prima dalla collega del Sole, dico, 24 ore, cioè noi dobbiamo pensare che il giovane che sceglie oggi di studiare uscirà, sì, nella migliore delle ipotesi fra 4 anni, sì, se fa, certo, la laurea di primo livello, nella peggiore delle ipotesi uscirà fra 5, 6, 7 anni. Io cito Schleicher, un tedesco che è direttore dell'OCSE, che dice: attenzione, oggi i sistemi di istruzione debbono preparare per lavori che non sono stati ancora creati, certo, per tecnologie che non sono state ancora inventate, per problemi che ancora non sappiamo che non nasceranno. Sappiamo che, certo. Quindi ha ragione un ascoltatore che ci scrive: sono anche i piani didattici che devono essere rinnovati. Tra l'altro, professor Cammelli, lei ha innescato una guerra tra dirigenti non laureati e laureati tramite SMS, che veramente lasciamo stare, perché insomma c'è chi parteggia per una parte o per l'altra. Però. Sì, ma dico, mi dispiace molto, ma ho citato semplicemente i dati dico dell'OCSE, certo, dico francamente. Io ho fatto il confronto con la nostra, dico, Germania. Certo, no, ma giustamente, poi la realtà è sfaccettata e giustamente bisogna tener conto di tutti gli aspetti. Allora, io voglio dare ovviamente spazio, mi scusi professor Cammelli, ma abbiamo ancora pochi minuti e avevo piacere che il dottor De Stefani invece ci potesse aiutare a capire a questo punto sulle spese che cosa possiamo fare, perché in qualche modo è qualcosa si può detrarre. Sì, si può detrarre il 19% dall'IRPEF delle spese, considerando solamente le tasse e i contributi, per la frequenza dei corsi di laurea, sicuramente per i master anche e per i corsi di specializzazione. Sono detraibili anche le spese per i master fatti all'estero, per i corsi di laurea fatti all'estero, i corsi di specializzazione e di perfezionamento presso università private italiane o statali, ma anche estere. Ricordiamo che anche il contributo per il test d'ingresso è detraibile, sì, al 19%, quindi anche se poi non si riesce ad entrare nell'università, il quanto viene pagato in questi mesi per effettuare questo test d'ingresso si può detrarre nella dichiarazione dei redditi. Perché comunque non dobbiamo mai dimenticare che sostenere un figlio all'università è comunque una spesa, e soprattutto in questo periodo è una spesa gravosa e onerosa per tantissime famiglie. De Stefani, per quel che riguarda i contratti di locazione. Sì, per quanto riguarda la locazione è possibile detrarre anche in questo caso il 19% della spesa sostenuta per i canoni solo se l'università dista almeno 100 km dalla sede dalla residenza dello studente, sì, appunto per la frequenza di un'università che sia in una provincia diversa. E da quest'anno, dal 2012 in particolare, nella dichiarazione che si sta facendo in questo momento, è possibile però iniziare a detrarre anche i costi per i canoni di locazione per la frequenza di università all'estero, a patto che sia nella comunità europea, quindi nei 27 stati della, sì, UE, oltre che Norvegia e Islanda. Allora, io, visto che lei ha citato giustamente i test d'ingresso, vorrei ricoinvolgere la collega Federica Micardi e fare il punto su questi test, perché c'è stato un po' di, come dire, ci sono state notizie un po' frammentate nelle ultime settimane su questi test. Sì, in merito ai test d'ingresso, quest'anno il ministro del precedente governo aveva introdotto, come dire, un meccanismo per conteggiare anche il voto di uscita dalla scuola superiore, che però ha creato non pochi problemi, è dal 2007 che si tenta di inserirlo e poi di solito si abbandona l'intenzione. L'idea. Anche questa volta sta creando un po' di difficoltà perché le scuole non hanno tutti gli stessi criteri di valutazione, eccetera, quindi per Certo. non favorire i diplomifici, come si dicono i Sì. maligni, a questo punto stanno studiando un modo per evitare che questo accada e quindi tutto sommato hanno pensato, ritenuto opportuno rinviare a settembre alcuni test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, quindi Certo. medicina, odontoiatria, veterinaria, architettura, che tra parentesi sta, come dire, sta registrando un crollo notevole, di tipo meno 34%, se non ricordo male quello che abbiamo scritto sulla guida. Quindi, insomma, c'è stato questo rinvio, forse per i ragazzi tutto sommato è meglio, cioè, si rovineranno in parte le Le vacanze, ma vacanze avranno però più avranno tempo per comunque, studiare. certo, più tempo per preparare. Tra l'altro un ascoltatore ci chiedeva, e Federica, non so se questa è un'informazione cioè che possiamo dare oppure no, ma è proprio un'informazione tecnicamente di servizio, se anche farmacia è contesto d'ingresso. Allora, farmacia, guarda, sai che la domanda mi viene da dire di sì, ma non Non l'ho siamo letta fra. sicurissimi, Esatto. cercheremo di rispondere con più precisione al nostro ascoltatore. Il nostro tempo è terminato e allora io ringrazio il professor Andrea Cammelli, direttore del Consorzio Alma Laurea, ringrazio Luca De Stefani, che è l'esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, ringrazio la collega Federica Micardi, auguro a tutti voi una buona giornata.